Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Andando un po' a raccontare il mondo di Star Wars, siamo nello spazio, quindi nel futuro. In questo futuro la gente vive su vari pianeti e si muovono, si spostano su delle navicelle spaziali. In questo futuro ci sono anche delle guardie che si chiamano Stormtrooper, che non si capisce, sono a metà tra dei robot e delle persone, che in realtà sono uno dei primi esempi chiaramente di icona gay nella storia del cinema, perché loro comunque hanno questo aspetto un po', ma però sono tutti poi magrini, carini, si muovono in maniera carina, non sanno prendere la mira, quindi sono chiaramente gay. In questo futuro, partendo e andando a raccontare i fatti cronologici, in questo futuro c'è una regina, quindi c'è una sorta di monarchia, e qua entra l'argomento politico interessante, che questa regina ha dei cavalieri che la proteggono, che si chiamano Jedi, che è una sorta di ordine tipo monastico, un po' buddista, sono una specie di samurai dello spazio, però non sono... Naturalmente una comica, se realmente una fan delle guerre stellari parlasse così, sarebbe cosparsa di bitume e piume e portata con ludibrio nella pubblica piazza. Sì, perché la frenesia è tanta anche alle nostre latitudini, quindi immagino anche nelle parti del mondo maggiormente strutturate in cultura di guerre stellari, quello che starà accadendo in questo momento alla vigilia della prima del settimo fantastico episodio. Mai un film fu tanto pubblicizzato, fu tanto sponsorizzato. L'altra notte, domenica notte, nella triste bruma di Piazza Mazzini, una sorta di bancarellume natalizio ricoperto dalla solitudine di quel luogo dove c'è una farmacia gigantesca illuminata che sembra una discoteca, davanti a un negozietto che vendeva telefonini, c'erano nascosti nel buio, nell'ombra, nella caligine, con i topi che uscivano dalle fogne che camminavano fra i piedi, due figuranti vestiti, una da Darth Vader e l'altra da principessa, che stanno lì con i loro pannuccetti carnevaleschi, uno aveva anche la spadina luminosa laser nella nuova versione che ha anche l'Elsa, e cercano di attirare l'attenzione di qualche bambino, ma non passavano bambini e non passarono lì per ore e giorni. Beh, come la vedete voi con questo inizio di guerre stellari? Sì, perché ancora lo chiamo così, sono di quelli che nel 77, poco più che ventenne, vide il primo episodio, rimase mediamente stupito, poi vide il secondo, poi il terzo, poi si fermò perché ne aveva le palle piene. 800 24 00 24, a tra poco. Melog, Cronache Meridiane. Mi hanno addestrato a un'unica cosa, ma non ho niente per cui combattere. Niente ci fermerà. Io finirò ciò che ha iniziato. Girano storie su ciò che è successo. È vero. Tutto vero. È cambiata anche l'unica cosa che merita di essere ricordata nella lontana mia fanciullezza e giovinezza, è la voce di Darth Vader, che è cambiata, un'altra voce molto più normale, ma la stessa voce poi è stata imitata in fanta centinaia di migliaia di film dell'orrore. Somiglia alla voce di Freddy Krueger, di Nightmare, ma tutti i mostri, tutti i fantasmi, tutte le mummie, anche gli zombie, se parlassero ogni tanto, avrebbero questa voce. Mai voce fu più imitata. Beh, devo dire che il monologo iniziale, che poi lo rivelo, era, come ho detto, realizzato da una comica, da un'attrice, era Martina Dell'Ombra, che prendeva in giro le fante interpretazioni dei fan di Guerre Stellari, ha suscitato, come prevedevo, ire terrificanti, vorrebbero farle di tutto. Evito di citare il turpiloquio, ma mi scrive un certo ascoltatore via SMS: ma che cavolo dice con la K e due Z? Dove li vede i culattoni in Star Wars? Questa zoccola, ah, è terribile, ha toccato uno dei più intoccabili tabù, anche se poi diciamo una sorta di filone di omosessualità latente c'è in tutta la saga, almeno ricordo. Il rapporto fra i due robot era chiaramente un rapporto di una coppia gay, era favolosamente impossibile non pensare che in realtà dei due il maschio era quello piccolino con le rotelle e la femmina quello dorato che sculettava e camminava, se volete proprio affondare il pane nei luoghi comuni. Poi è vero, sì, come mai i soldati cattivi, quelli bianchi, sparano fantatonnellate di raggi laser e non colpiscono mai nessuno, invece arrivano quelli lì con delle spadine di plastica che immediatamente fanno a pezzi tutti. C'è qualcosa che non funziona. Vediamo se Massimiliano, l'ascoltatore Massimiliano Visconti, in realtà può riportare nell'ambito della corretta interpretazione liturgica quello che finora è stato detto di obbrobrioso sulla saga. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Si è sentito male lei? Sì, ma io ho trovato degli strappi interessanti dalla recitazione su quella parodia che è stata trasmessa. Anche ma lei fa la voce di Darth Vader sempre nella vita? Perché sento la voce un po' metallica. O è un problema del telefono e della linea? Credo sia un problema del telefono, però quello che mi dice... Le sta venendo benissimo, ha una voce da Darth Vader. Questa è una cosa interessante. Quello che mi piace pensare di Lucas lo sente definito l'uomo che viene dal futuro, perché su tante cose è stato una persona che è arrivata prima degli altri. Facciamo un esempio, così capiamo anche noi in cosa. Ok, la prima cosa è sicuramente lui quando girò il film, in collaborazione anche con Brian De Palma, Francisco Coppola e Steven Spielberg, quando cominciò a avere le idee, alla fine lui aveva perfettamente capito che cosa avesse fatto, tanto vero che parlando con la Francis Henry Fox gli disse: va bene, voi prendete i diritti del film, io mi tengo quello del merchandise. Abbiamo nel 76. Vabbè, aveva capito che con gli oggettini avrebbe fatto più soldi con i film, diciamo un acume di tipo commerciale, non certo di creazione artistica, perché di Cosmo se n'era visto tanto. Adottò il Cosmo è pronto, la tipica frase che negli studi di posa di Cinecittà, quando andava di moda il genere spaziale italiano. Quindi ha fatto un Cosmo, ma ha fatto tanti giocarelli, cioè le spadine di plastica laser, ne avevo regalate tonnellate ai miei figli quando erano piccoli, erano bellissimi, rompevano subito, avevano le batterie, si consumavano subito, ma quando uno le aprava erano telescopiche come le appendici dei somari, e però erano bellissime a vedere. Fermo un attimo, c'è Claudio, buongiorno. Buongiorno. Sì, io chiamo da Modena. Volevo soltanto sottolineare la frase con cui lei ha chiuso il primo sì intervento. Mi è sfuggito un brutto termine, scusate, non lo dirò mai più. Però vabbè, io se vuole lo ripeto, però sono solidale. Cioè, qual era? E poi non mi ricordo nemmeno. Dopo la terza puntata mi sono rotto le scatole. Ah già, mi sono rotto le scatole. Sì, scatole è una brutta parola, non devo dirlo, ho ragione. No, sì, ma non so, io... Amo la fantascienza, sono cresciuto con Asimov da ragazzo, io ho una mia certa età oramai. Però obiettivamente quello che trovo bello in questi film sono gli effetti speciali, sono le luci, sono queste trovate, però insomma alla fine lei la dà. È più carina che è uscito dopo la terza o la quarta puntata, insomma. Sì, diciamo che alla fine io ho perso il filo, non sono molto attento e molto paziente, ho perso il filo degli incroci, delle situazioni, delle dimensioni. Poi a me piacciono i film in cui capisco chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Qua non si capisce mai, i cattivi in realtà sono degli ex buoni e tutti i buoni hanno qualcosa di cattivo da farsi perdonare nella vita. La realtà è così, ma io voglio che almeno nella finzione ci siano buoni da una parte e cattivi dall'altra e si capisca subito. C'è qualcosa che mi dà inquietudine in questo film. Silvana De Mari, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono lo scrittore fantasy e vorrei chiarire... Aspetta, ti presento, Silvana De Mari, aspetta, perché sennò devi... Scrittrice di genere fantasy, saggista, vai. Psicoterapeuta, gli ultimi romanzi da poco pubblicati sono dedicati alla saga di Anya, il regno delle tigri bianche, giunti 2015, Anya, il cavaliere di luce, giunti 2015, poi gli altri saggi precedenti, abbiamo ricordati la realtà dell'orco, edizione Lindau, insomma è una scrittrice di fantasy. Hai messo una tua foto su Facebook dove stai te accanto a Darth Vader, anche tu con la spadina luminosa in mano. Allora, ami il genere. La mia è una spadona, che hanno quei diminutivi. Dunque, e ce l'ho in mano. Vabbè, adesso. Con pieno merito. Perché la guerra chi c'ha la spada più grossa, scusa, dai, sì, facciamo la spada più grossa, ce l'ho io. Sì, sì, vinci di sicuro, sicuramente, okay. Dai. Perché si tratta di una saga fantasy. Certo, c'è un'ambientazione fantascientifica, apparentemente, in realtà comincia con C'era una volta una galassia lontana lontana, molti riferimenti a Jeff Hawke e ovviamente ad Asimov, per il resto è in tutto e per tutto fantasy. Lo schema del libro fantasy ce lo dà la buonanima del dottor Chesterton. Devono esserci tre elementi, San Giorgio, la principessa da salvare, e il drago. San Giorgio va contro il drago per salvare la principessa. Quindi la principessa può essere... Ma scusa, ma era un santo, che la salva fare? La principessa sarà un santo, quindi non poteva libarne poi le grazie. Forse stai confondendo santo e celibe. Salto un giro e vado avanti. Quindi noi dobbiamo... Mi dai una notizia che i santi potevano andare con le principesse. Assolutamente, sì. Santo e celibe non sono sinonimi. Ci sono celibi che non sono santi, ci sono santi che non sono celibi. Prima o poi farò una... I celibi non santi sono i più terribili, perché sono quelli che insidiano le persone. Prima o poi ti faccio una lezione di cattolicesimo per dilettanti. Ci hanno proprio bisogno. Che era un cattolico integralista, tanto per chiarire. Dunque, dobbiamo avere un cavaliere, in questo caso San Giorgio, che deve avere degli elementi spirituali. La principessa, che può essere la principessa essa medesima, o può anche essere un concetto, un'idea o la terra di mezzo. In questo caso abbiamo il doppio schema, la principessa essa medesima e la terra di mezzo, anzi l'universo di mezzo. Da questo punto di vista direi che Guerre Stellari è il film che in assoluto fa più morti. Nel primo film distruggono addirittura un pianeta. E poi abbiamo il drago. Il drago è una potenza assoluta. E il drago è la metafora, per questo abbiamo così tanto fantasy, dell'elemento genocidiario. Noi siamo il secolo del genocidio e abbiamo messo questo odore in due generi, in fantasy. Sarebbe la parte oscura della forza, tutto quello che c'è dentro. La parte oscura della forza, che però nel Guerre Stellari, io credo che chiunque potesse capire al primo colpo chi erano i cattivi, e va bene. Io no, non l'ho capito. Peter Fender mi fa quasi tenerezza, mi sembra buono alla fine, poverino, quando leva la maschera tutta con la faccina putrefatta, in fondo gli dispiace, esatto, essere cattivo. Una storia, ma si presenta. Luke è antipaticissimo, con quella mano sintetica, perché se l'era consumata in chissà quale attività, cioè è bruttissima questa cosa. Vabbè. Dunque, il punto fondamentale è che l'imperatore si presenta già all'inizio con: noi siamo il lato oscuro della forza. Questo è bellissimo, perché in realtà tutti gli stramaledetti criminali in tutta la storia dell'umanità, e in particolare quelli del XX secolo, si sono tutti presentati come San Giorgio. Tutti erano il lato luminoso della forza, venuti a sanare ingiustizie inenarrabili sulla Germania, sulla classe operaia, sui contadini cambogiani, e non abbiamo smesso di finire. Ma per questo ho un elmetto vagamente nazistoise, il nazistoide. Bravissimo! Sì, beh, dai, ci vuole. Sì, che è una via di mezzo tra l'elmetto della Seconda Guerra Mondiale e quello della prima. Somiglia a quelli di Sturmtruppen. Sì, faccia un capoccione smisurato e anche la maschera antigas. Tutto. Anche la maschera, con la maschera antigas inclusa, quindi c'è anche questa roba terribile della maschera antigas. Gli aeroplanini ricordano gli aeroplanini della prima guerra mondiale, capo osso a capo oro. Alla fine questi vincono tirando il cordino e facendo inciampare questi macchinari stratosferici. L'altro punto fondamentale di Guerre Stellari, che è il motivo per cui l'amiamo, è che inverte lo schema del parricidio. Non è un parricidio, l'ha invertito, sembra un parricidio, non lo è. Tutto il XX secolo è un parricidio. Il comunismo, il nazismo e il 68 sono tutti parricidi. I nostri antenati sono un branco di zuzzarelloni, si può dire in radio, sì? Sì. Dai. Sì. Noi siamo più intelligenti. Ci sono tante Z, ma si può dire. Sì, ci sono tante Z. Adesso facciamo uno di quei mondi magnifici che vi facciamo vedere noi, e poi non si contano più i morti. Il 68 è stato un evento in cui i figli hanno azzannato dei padri innocenti. Questi padri, che era tra l'altro la gente fisicamente sopravvissuta alla Seconda Guerra Mondiale, non li avevano mandati a fare una guerra mondiale, non li avevano affamati, non li avevano venduti, né alla strega né alla miniera, eppure sono stati aggrediti. Mentre Dag Fener oggettivamente ha commesso il male, quindi la sua aggressione non è a lui in quanto padre, non c'era nulla che il padre del 68 potesse fare per non essere aggredito come, come individuo nefasto responsabile. Lo era in quanto padre, in quanto rappresentante simbolico della paternità, certo. Esatto, mentre questo è in quanto facitore. Poi vennero i lacaniani, si inventarono il padre forcluso perché non sapevano che inventarsi. Non però... sapevano più che inventarsi, siamo perfettamente d'accordo. Ma non solo in quel senso, perché qui è un recupero del passato, come tutto il fantasy, l'heroic fantasy, è un recupero del Medioevo. Noi troviamo anche i monaci guerrieri, che sono stati i templari, gli ospedalieri e i tedeschi e i teutonici, e che si sono poi trasformati nel mago guerriero, che sono Merlino e Gandalf. Quindi abbiamo tutti gli archetipi della cultura tradizionale occidentale in un momento in cui era stata aggredita al punto tale che si era perso il punto fondamentale del cristianesimo: non ammazzare il bambino, non puoi dare ordini scritti di ammazzare i bambini, e si è arrivato al genocidio. Allora fermiamoci un attimo, Silvana De Mari, perché proprio da qui riprenderemo fra un istante, dopo la pausa, proprio da la fantomatica frase che in fondo sopravviverà a tutta la saga dei film: sono tuo padre. Quanti l'hanno imitata, in quanti film è stata ripresa questa frase, nei cartoni animati, in Toy Story addirittura, che a un certo punto il colpo di teatro, che è il cattivo dei cattivi combattuto dal buono dei buoni, in realtà tra loro c'è un legame di sangue. Cosa accade? Melog. Cronache meridiane. Non hai scampo. Non lasciare che ti distrugga. Luke, tu non ti rendi ancora conto della tua importanza. Hai solo cominciato a scoprire il tuo potere. Vieni con me e io completerò il tuo addestramento. Unendo le nostre forze, possiamo mettere fine a questo conflitto distruttivo e riportare l'ordine nella galassia. Non verrò mai con te. Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Gli ha detto abbastanza. Che sei stato tu ad ucciderlo. No, io sono tuo padre. Questa è la frase dell'episodio quinto di Guerre Stellari, in cui viene detta la frase "io sono tuo padre". In rete ci sono delle sequenze, tanto è famosa questa frase, in cui questa frase è detta ai doppiatori di tutte le lingue del mondo. "Io sono tuo padre" detta in tutte le lingue in sequenza, come fosse un mantra. A proposito di doppiatori, devo dirvi che domani saremo tutti all'Auditorium del Massimo qui a Roma alle 21, perché c'è il Gran Premio Internazionale del Doppiaggio, una cosa fantastica. Danno il premio alla carriera a Gigi Proietti, che è un doppiatore delle più note voci, dei più noti idoli del cinema americano. Anche Sylvester Stallone, di lui è quel Adriana che diventerà l'inno alla cozza, perlomeno per il pubblico italiano. E a proposito di doppiatori, ci interessa capire chi mai fosse a dare la voce di ciò che c'era di putrefatto sotto quel bel elmettone nero da post nazista. C'era perlomeno in quel film e in quella fatidica frase che rimarrà scolpita nelle nostre coscienze, Massimo Foschi. Foschi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Lei ha dato la voce a Darth Vader, quindi lei ha detto sì. La frase che rimane più impressa nella mente di tutte le generazioni italiane che vedranno, hanno visto e hanno visto in vite passate questo film. Certo. Ma c'era uno studio particolare, vi davano un modello per fare quella voce. Io ho sentito questo file che non mi hanno messo per mettere in onda con Darth Vader detto in tutte le voci, in tutte le lingue del mondo, e tutti hanno questo tono un po' metallico, un po' rock, poi è stato imitatissimo nel cinema dell'orrore. Ecco, che tipo di input vi davano per fare quella voce? Ma non nessun tipo di input. La scelta del direttore di doppiaggio Mario Maldesi, che conoscevo da tanto tempo, col quale avevo doppiato cose abbastanza, anzi molto importanti film di Visconti, Gruppo di famiglia in un interno, dove doppiavo Burt Lancaster, oppure Morte a Venezia, dove ho doppiato Dirk Bogarde. Maldesi mi disse: dobbiamo fare il provino, dobbiamo mandare i provini a Lucas, però sono sicuro che sarai tu, per il tipo di voce esistente. Poi dopo la voce viene un po' elaborata al missaggio. E viene un po' metallizzata, perché lei può farlo. Ci riesce a fare un attimo per sentire come la voce senza mixaggio? Ah, la voce è la mia, è così. Era così. Quindi veniva un po', diciamo, aggiunto un effetto elettronico, perché lui aveva questo respiratore ansimava continuamente. Viene aggiunto poi durante il missaggio. Anche l'ansimare doveva fare lei oppure era elettronico? No. Tutto viene sovrapposto successivamente. Tanto l'ansimare va alla fine delle frasi, sì, nelle pause, per cui non... Anche in originale è stato messo successivamente. Ecco, ma lei si rendeva conto del momento in cui pronunciava questa frase? Per lei era una frase da doppiatore, uno dei tanti, tantissimi lavori, faceva con grande impegno, ma che in questa frase proprio qua, sono tuo padre, sarebbe passata la storia del cinema, indubbiamente. No, non immaginavo affatto. Quando lo doppiai, mio figlio allora aveva 4-5 anni, non lo portammo al cinema a vedere il... Si spaventava. Sì, perché identificare, forse sarebbe riuscito a identificare la voce di Lord Fenner con la voce di suo padre. Perché sarebbe stato brutto. Sarebbe stato il papà. Oddio, anche Eschenbach con Tazio e Morte a Venezia non è che era una bella scuola, però anche quello era un'altra cosa. Era un'altra cosa. Beh, diciamo che quindi lei andrà a vedere il film questa sera? No, andrò... Poi l'hanno cambiata, hanno cambiato tutte le voci, non sono più le stesse. L'ho sentito all'inizio al trailer, un'altra voce, non è più quella di una volta, o sbaglio? Ma no, io non, come personaggio sono morto. Quindi non c'è più, è morto. Mi dispiace, parlo con un morto che cammina. Pensi quanto cioè, arriva in profondità la mia conoscenza. Però nel trailer c'era la voce, evidentemente me l'hanno fatta sentire, non ho capito. Ma, c'è un personaggio che usa la maschera di Lord Fenner. Ah, ecco. Credo, per quello che ne ho saputo, che sia un suo nipote. E quindi più o meno ha la stessa voce di famiglia, quindi se la porta un po' dietro, ecco, da lì nasce il mio dubbio. Io confesso, dopo il terzo non sono andato, ma volutamente, perché le saghe che non finiscono mai mi danno un po' di ansia. Io comunque ringrazio Massimo Foschi, ricordo che è lo storico doppiatore di Darth Fenner. La frase che lascerà in lettere di fuoco questo film nella storia del cinema mondiale l'ha detta lui, perlomeno per il pubblico italiano. Eugenio, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, buongiorno. Sì, lei è appassionato. Sì, sono appassionato. La stiamo facendo soffrire, mi rendo conto. Intervenire dopo Massimo Foschi dal Fenner è dura. L'è emozionata a sentire la voce? Sì. Immagini, io ho 50 anni, il primo film l'ho visto nel 77, proprio quando è uscito l'ho visto al cinema, credo di essere proprio uno di primo... Era bambino, era? Ero piccolo, però ha segnato la mia vita dal punto di vista cinematografico sicuramente. Ma lei non è di quelli che si vestono, si mascherano, fanno i raduni, i cosplayer, no? No, però devo ammettere che ho una spada laser. Ma quelli tutti, chi ha un figlio c'ha una spada laser? No, ma io ce l'ho proprio, si accende, sa che fa una cosa che è molto carina. Ah, sono anche quelle da grandi, sembrano vere? Sì, esatto, quelle che costano anche parecchio. Ah, no, quelle telescopiche ridicole, quelle no, che... No. E quando lei ci fa, come nel cinema, uguale? Le dirò, ogni tanto la guardo, l'accendo, la faccio vedere agli amici. No, mi spieghi, io sempre posso. Dunque, quelle che avevo comprate ai miei figli, pensi, le avevo comprate a New York, pensando chissà quale cosa era. Era una cosa di plastica, c'era dei tubetti di plastica telescopici verdi che uscivano fuori con la lucetta dentro, ma non era laser, non l'apprezzarono per niente. La sua è laser, vero? Le dirò, la mia è proprio, come dire, si accende. Un raggio laser esce. Sì, una cosa splendida. Come quelli che vendono i signori del Bangladesh a Piazza di Spagna, uguali. No, è costato un tantinellino di più. Quanto costa una spada laser? Dunque, una spada laser, questi sono oggetti da collezione sostanzialmente, possono arrivare anche a 400-500 euro. Lei ha speso 500 euro per una spada laser? No, me l'hanno regalata. Ma almeno a fetta, cioè taglia? No. Ah no, nemmeno quella? A che serve? No. so. Che è una luce per andare a alzarsi la notte a fare la pipì. Sono pezzi sostanzialmente numerati, una cosa, cioè da fan proprio sfregatati, quelli un po'. Vabbè, la tiene in cassaforte, ho capito. C'è questo culto della spada. Grazie Eugenio. Silvana De Mari, vedi che comunque a qualcosa serve Guerre Stellari. Mantiene questa sorta di sacra ritualità, di rispetto per l'oggetto spada, che ha un significato profondo, dalla spada nella roccia alla spada di San Galvano che sta a Montesiepi. Come vedi, qualcosa in fondo ha lasciato. Ma anche lei. Perché è nella roccia. Sì, tra l'altro la spada è un simbolo virile, non un simbolo fallico, un simbolo virile. E qual è la differenza? No, scusami, la spada di fuoco da che mondo è mondo? Diventa genitale, mentre la spada è quell'oggetto con cui San Giorgio protegge la principessa. E quindi andiamo anche sul fatto del ruolo. Non so se lo sapete, ma il ministro della cultura francese, una signora di origine marocchina, ha vietato le fiabe nelle scuole in Francia perché troppo sessiste, quindi ostentando le brigate grime ci passeremo le... Scusa, il bello delle fiabe è quello, ci sono gli orchi cattivi, certo. I mangiatori di principesse, le streghe che mangiano i bambini, e sennò c'è che serve? La mancanza di identità. Questa strepitosa frase, Luc, io sono tuo padre, da un punto di vista razionale ci ricorda che se nella saga di Star Wars, come in Harry Potter, tutti dicessero tutto subito, il giovane eroe si risparmierebbe una valangata di guai. Se tutti dicessero immediatamente Harry come sono morto. E diceva papà, non fare il cazzone, dai, sono tuo figlio, lo dice dalla prima puntata. Invece no. Esatto, invece no, qui non se gli avessero detto tutto subito, ma soprattutto la tragedia della nostra epoca, che è la perdita di identità. Noi abbiamo una perdita di identità cronica, per cui poi ricerchiamo anche identità di tipo tribale, come il tatuaggio, il piercing, la squadra di calcio, perché tutta la nostra civiltà ha perso l'identità non credendo in se stessa, a cui si aggiunge una seconda perdita di identità, anche maggiormente fisica. Adesso cominciano a esserci persone che non conoscono la propria identità familiare. Prima succedeva solo agli adottati, al bambino lasciato in orfanotrofio, mentre adesso un bambino può essere figlio di donatore anonimo o di una madre di cui ignora l'identità. Queste sono cose. Beh, una volta c'era anche la triste occorrenza dei figli che erano concepiti comunque attraverso rapporti extraconiugali. Lo sai che la percentuale è altissima, sembra che il 10% dei figli hanno una paternità che non è quella del legittimo padre riconosciuto all'anagrafe. Quindi esisteva sempre questa sorta di ambiguità dell'identità. Poi c'erano i figli dei preti, c'erano tante cose che naturalmente creavano disagio. Tu dici che questo dà forza all'esistenza di questo film? Un'ulteriore forza all'esistenza di questo film, che questo film sia forte, ce lo dice il fatto che abbia avuto così tanto successo. Non c'è battage, non c'è marketing che possa fare successo di queste dimensioni. Il successo di queste dimensioni vuol dire che questa roba che c'è nel film è nell'immaginario collettivo. Cioè questo film in qualche maniera sta parlando di tutti noi. È un po' come Harry Potter aveva lo stesso successo. Esattamente, stesso discorso di Harry Potter, stesso discorso del Signore degli Anelli. Ci dobbiamo fermare un attimo, aspetta Silvana, devo dare un attimo la linea, un minuto, poi riprendiamo con te. Melog, cronache meridiane. Oh, R2, ho fatto il più bizzarro dei sogni. Se il conte Duco ci sfugge, alla sua causa altri sistemi chiamerà. I Jedi hanno ammassato un grande esercito. Non mi sembra possibile. Come hanno fatto? Questo era il secondo episodio, Silvana De Mari. Scrive un ascoltatore, me l'ha già detto, non ha capito bene, che il film che fa più morte nella storia del cinema è proprio Star Trek di J.J. Abrams, che distrugge Vulcano. Non so adesso ci fossero più morti a Vulcano o più morti in altro. Non sappiamo se sono più morti a Vulcano o nel pianeta della principessa, del primo film. Questo non c'è un'anagrafe precisa extrastellare, però ci sono sempre i saputelli che hanno a dire le cose. Comunque va bene, chi distrugge pianeti ammazza un sacco di gente. Sono film che però sono distrutti. costruzioni che emotivamente colpiscono. Fa molta più specie, più impressione in un film vedere magari una lenta, estenuante e massacrante tortura psicologica a un essere umano che un pianeta che fa una bella palla di fuoco e muoiono tutti. Però la cosa che volevo aggiungere, c'è un dato però in Guerre Stellari che anticipa un po' uno dei dilemmi che oggi sta attraversando la società. È questa sorta di caffè multietnico dove sembra che si sia superata ogni differenza rispetto all'esteriorità delle persone, in cui ci sono esseri con grandi occhi, con proboscidi, cioè sembra che lì si sia già superato il problema della diversità fisica e ci si assimili più per altri tipi di omogeneità. C'era questo dato iniziale, non visto con un moderno ebonismo di grande abbraccio multietnico, ma no, lì veramente la gente si ignorava, il pilota pelosissimo, quasi uno scimmione, non si fa caso alla sua diversità rispetto ai bellissimi altri personaggi. C'era certamente nelle moltissime situazioni di fantascienza a cui ci si ispira, tra cui Jeff Hawke, c'è stato nella Seconda Guerra Mondiale, e quindi noi vediamo come la Compagnia dell'Anello sia multietnica, mentre le armate dell'imperatore sono monoetniche. Per quanto riguarda sono tutti uguali, fisico, è vero, sì, come Metropolis, sono esatto, alti biondi uguali come le armate del Führer e come personaggi dei libri di Moccia. Scappata. Dunque, vabbè, ma figurati. Ecco, l'amore moccioso del moccio amoroso di Moccia Muccino è uno dei temi che più ha amato la mia formazione personale, sono i miei libri da comunità. Non lo mettevo in dubbio. Quindi torniamo a noi. Il multietnico non è un problema, il multiculturale è impossibile, è una catastrofe. Noi possiamo convivere con persone che hanno caratteristiche fisiche, di vestiario, di maniera di cucinare, diverse dalle nostre, purché le linee guida, il rispetto dei diritti dell'uomo sia condiviso. E questo come nel Cosmo però succedeva, nel Cosmo dei primi Guerre Stellari succedeva questo, perché succedeva, in un bar stanno tutti assieme e ognuno se ne sbatteva della diversità degli altri. Sì, infatti. Però condividevano le linee guida. Certo. Quando c'è qualcuno che non divide le tue linee guida, anche se magari è simile a te, il risultato è una catastrofe. Per cui, facciamo un esempio a caso, noi non abbiamo nessun problema in Europa a condividere con ebrei, buddisti, induisti, shintoisti e sikh, che condividono le nostre linee guida sui rispetti dei diritti dell'uomo. Ci abbiamo con i musulmani. Come hai fatto a capire che stavo per dire quello? Beh, non so, l'ho buttato lì una cosa a caso, la prima che veniva in mente. L'Arabia Saudita, Tariq Ramadan, ci dicono che non possono, è vietato dalla loro religione, il rispetto dei nostri diritti umani. Quindi, attenzione, la polveriera è innescata. Vabbè, adesso questo non ti voglio censurare, ma ci abbiamo pochi minuti. Vediamo un attimo. No, volevo continuare a parlare di questo film. Tu vedi allora in questo film qualcosa che non si omologa e quindi fa parte dei cattivi, a parte i robottini tutti uguali, le armate dell'imperatore? I robottini tutti uguali da Madre dell'Imperatore ci dicono che la base del totalitarismo è il fatto che esiste il gruppo e l'individuo non è che un frammento del gruppo. La base della democrazia è che esiste l'individuo unico e ripetibile, e quindi il gruppo è un ammasso necessariamente caotico e cacofonico di individui diversi. Come diceva Edith Teresa Stein, la tragedia del totalitarismo non è solo la perdita della libertà, ma la perdita dell'anima, dell'individualismo. Si perde la coscienza di se stessi per far parte del formicaio. È bellissimo il documentario su Hitler fatto dalla cineasta, di cui non mi ricordo il nome, ma so che tu la sai, dove si vede quella che ha fatto le Olimpiadi, quella, bravissimo. Dove si vedono questi che si muovono tutti all'unisono come ballerine di fila, cosa che a loro sembra meravigliosa. La Riefenstahl, adesso non ricordo bene il nome, comunque fu la Riefenstahl che fu molto criticata, a fine del nazismo fece un capolavoro unico. Lei fece un capolavoro e lei giustamente, non c'è una sola parola salvo quelle di Hitler, lei rappresenta il nazismo com'è, un mucchio di uomini che hanno rinunciato alla propria volontà per muoversi all'unisono con la volontà di un altro. È rappresentato benissimo, i soldati di Guerre Stellari, le SS le volevano tutti uguali, se eri 10 centimetri più basso, eri bruno, qualcosa, non erano così contenti, insomma. Oppure le persone con la faccia coperta. Anche a Lido, le ballerine sono tutte uguali, hanno tutto lo stesso. Anche le ballerine sono tutte uguali. Un palmo e mezzo di culo, tutte uguali. Sì. Salvo le toile, che è lei, le altre fanno parte di uno sfondo. La faccia coperta del terrorista non serve solamente per salvarlo da una rappresaglia, ma è qualcosa di mostruoso, l'uomo che non mostra la faccia. Allora, fermo un attimo, Silvana, no, volevo sapere, noi abbiamo fatto un lavaggio del cervello a Massiliano Visconti, che è il vero appassionato di Guerre Stellari, volevo lasciare a lui l'ultimo minuto perché mi dica, di fronte alla nostra demolizione e reinterpretazione di Silvana De Mari, cosa rimane delle sue certezze? Ma a me rimane tutto, è piaciuta tantissimo l'interpretazione della signora De Mari di Guerre Stellari, ma questo non ha nulla a che vedere con la mia passione, tanto è vero la che fede non si discute, è chiaro. No, perché io dico, perché dopo aver visto episodio 1, dove c'è l'Immacolata Concezione, dove c'è veramente una violenza nei confronti dei fan di Guerre Stellari, io sono andato a vedere anche il secondo e il terzo, perché è qualcosa che ormai fa parte del patrimonio dell'umanità, dell'inconscio collettivo, è qualcosa che va oltre, è qualcosa che ha le radici in qualcosa di particolarmente sensibile e giovane. Io sono andato con mio padre, lei è andato quando era molto giovane, e come per le squadre di calcio è un affetto che niente può demolire, anche le cose più Però Silvana De Mari l'ha detto, perché lei fa le righe, non so se l'ha colto, perché affonda in degli archetipi che sono oltre la storia e oltre ogni possibilità di rappresentazione, sono quelli su cui si è sempre basato il racconto dell'umanità, e evidentemente vuoi per acume, vuoi per intelligenza, vuoi perché studiano e si applicano, ci sono riusciti con questo film e con tutti questi film, questa sbobbona che vi sorbirete senza di me. Alla prossima!